Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana che comincia e comincia bene con il consueto appuntamento insieme all'Adico. Saluto il presidente dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori, Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo oggi con te, Carlo, di questa cosa che ha destato sicuramente scalpore e anche un po' di preoccupazione, questa nuova legge che starebbe per venire fuori e che garantirebbe alla banca la possibilità, se uno salta, di pagare 7 rate del mutuo, permetterebbe alla banca di prendersi la casa senza neanche passare da un giudice. Spieghiamo bene questa cosa? Sì, allora Francesco, innanzitutto dobbiamo cominciare a spiegarla dicendo che questa in sintesi è il recepimento di una normativa europea che anche l'Italia è stata invitata ad adeguarsi, che prevede in sostanza coloro che per 7 volte, anche non consecutive, saltano di pagare la rata della banca, a far sì che quest'ultima, in maniera semplificata, con una procedura che non è più come quella di prima ma molto più snella, mette in vendita la casa per scuotere quella che è un po' un'ipoteca, che ricordiamo è una forma di garanzia che la banca ha sull'emissione di un mutuo, e quindi permette di rientrare con i debiti che ha nei confronti del moroso, e il moroso di trattenersi la differenza dell'importo una volta corrisposto appunto le differenze, le spettanze all'istituto bancario. Quindi una norma che certamente, come hai detto tu, sta creando molto scalpore, perché sai, si va a parlare della prima casa e che quindi in questo argomento la gente giustamente è molto sensibile. Ecco, io mi sono sempre chiesto, ma non è meglio che magari se uno non riesce a pagare le rate del mutuo, la casa se la venda lui? Allora, guarda Francesco, per dirti se la norma è giusta o sbagliata, io ti dico com'è oggi in Italia. In sostanza oggi non cambia nulla, perché già oggi chi non paga 7 rate può permettere alla banca di procedere all'esecuzione, la riscossione quindi dell'immobile, la vendita tramite asta giudiziaria eccetera. Certamente una trafila che da un lato ha dei costi, ma dall'altra che comunque svaluta l'immobile, perché sappiamo che quando l'immobile va all'asta viene messo anche a un prezzo inferiore rispetto a quello che è una quotazione di mercato, e oltretutto a questa trafila bisogna dire come differenza, c'è un po' la lungaggine, che comunque sappiamo che mediamente è di circa 7 anni. La norma che si sta discutendo in queste ore, che comunque l'hanno già in parte stravolta, da 7 l'hanno portata a 18, e qualcuno dice che comunque non è così negativa, perché diversamente, se le banche non possono tutelarsi, inevitabilmente non concederanno più dei mutui. È anche vero che in quest'ultima ipotesi la vendita era fatta su una stima di un perito rispetto a un valore di mercato, e quindi non rispetto a quello che è un'asta giudiziaria che va a svalutare molto quello che è una reale quotazione. Ma di fatto torniamo sempre al ragionamento iniziale, se è giusto o meno andare ad intaccare un bene primario come la casa su quelle che sono delle situazioni di cui le persone magari per effetti di certe vicende non riescono più a sostenere o a pagare i debiti riscontrati. Sì, è un bel problema, quindi di fatto cambierebbe poco, mi sembra di capire. Allora, cambierebbe poco, anzi, paradossalmente non cambia nulla, se non il fatto che lo renderebbe la procedura più snella, ma che paradossalmente deve anche tutelare maggiormente l'inquilino, stimando l'immobile al valore del mercato e non quindi per effetto di offerte alle aste. Certamente bisogna anche dire che oggi, se una persona non riesce a pagare il mutuo per motivi oggettivi, quali per esempio la perdita del posto di lavoro o l'aggravarsi delle condizioni di salute, si può arrivare a sospendere le mensilità. Per cui diciamo che questa nuova norma, rispetto alla vecchia, va a svenire procedura giudiziaria sicuramente, che è molto più lunga e quindi permette all'inquilino magari di rimanere più dentro casa, però basta va a guardare la vendita di un immobile che viene fatta al valore del mercato rispetto a quello che può essere fatto a seconda di offerte che si ricevono sulle aste giudiziarie di cui partono un valore minimo. Certo, vabbè, quindi insomma non mi sembra neanche proprio una brutta cosa. Se uno comunque vuole avere ulteriori dettagli e ragguagli, una bella telefonata all'Adico, ricordiamo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it per farsi aiutare insomma in questi meandri delle regole e delle nuove leggi, legge che comunque non è stata ancora applicata, vero? Sì, legge che non è ancora stata recepita, perché ricordiamo una direttiva, ma che anche in quest'ora è ancora in discussione, come abbiamo detto è anche stata stralciata su alcuni punti importanti. Ricordiamo che il punto più dibattuto è quello dell'automatismo, di cui comunque le persone giustamente sono anche insorte, e che comunque ci auguriamo che sia sempre rispettosa invece della salvaguardia della propria abitazione, perché noi come Adico riteniamo che la casa debba essere imprescindibilmente sempre salvaguardata. Grazie a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico di Mestre, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.